calcio, donne, calcio, donne, calcio, donne, donne, calcio, donne, calcio, donne, calcio, donne, donne, due passioni, come amo così tanto calcio. Buonasera, buonasera a tutti quanti dal più bel giornalista del mondo, Michele Criscitello, e benvenuto a Speciale Calcio e Mercato qui su Sport Italia. Sono io il giornalista più bello del mondo, l'unico che dai del tu a Benny Carbone. Ma chi ne chiede da danzare? Sì, regia, per favore, al vostro posto, evitiamo di fare campanilismi inutili, se no io che sono di Avellino potrei dire Napoli in merda, ma non lo dico. Dico Napoli in merda, ma non lo dico. Bene, cari amici, in questa puntata ci saranno degli scoop enormi che solo noi di Speciale Calcio del Mercato siamo in grado di darvi. Ma presento le gnocche che sono in postazione questa sera: Maria Grazia e Deborah Senzacca, ma con due pere così. Buonasera, ragazze! Minchia, ma hai detto che mi portavi a uomini del danno? Quanti sei permesso? Dai, dai, Maria Grazia, non parti! Non incazzate, non iniziare a fare i capricci, che dopo la puntata ti porto a divertirti da pedulla per una nottata di sesso e Lega Pro. E chi è sta Lega Pro? La discoteca? No, pura no. Vabbè. E tu, Deborah, con le pere, cosa ne pensi dei calciatori? A mia, i calciatori mi piacciono soltanto. C'è una volta c'era un campettore a Cosenza, c'era un benzinaio da riforma. Via, chi via? Va bene, non entriamo in particolare. Ora il mio grande, il mio braccio destro, anzi io direi il mio testicolo destro, lo sciampato di Alfredo Pedulla. Buonasera Michele, buonasera. Volevo confermare quello che diceva Deborah, il grande talento della riforma circolata adesso gioca nel Cerisano, ho trovato una scaglia all'intorno. E non rompere i coglioni con queste puntualizzazioni del cazzo, dai! Dopo avervi presentato la mia squadra, andiamo con gli scoop. Questa sera abbiamo delle esclusive che fanno incarnare le vostre unghie e le faranno incarnare in maniera molto seria, di cui solo noi di Sport Italia siamo in grado di dare, come la Lega Pro in esclusiva e come il campionato di bocce di Settimo Torinese. Bene, questa sera, cari amici, abbiamo messo una cimice nel nome Galliani, come dice il nostro Alfredo Pedulla, e abbiamo registrato la trattativa in esclusiva noi di Sport Italia tra Pedulla, siamo pronti, Galliani e Guardiola. Volevo dire, Michele, secondo me è andato anche a New York perché c'è un grande fascino, il fascino che tutti sappiamo di Galliani. Eh sì, te lo fascino con un conto meglio, ma a proposito, tu che conto tieni? Banco posta. E che motivi? Bene, bene, ricordatevi che comando io qui e mandiamo in onda quello che ha da mandarci la cimice all'interno della tasca di Galliani. Andiamo, lo faccio io regia questo, non rompete, perché io sono il numero uno dei giornalisti, sono il nuovo Maurizio Mosca. Allora, 1, 2, 3, partiamo. Sono rilasciato, ho vinto la Champions League, ho vinto tutte le coppe del mondo, ho vinto il mondiale per club, ho vinto la Liga Spagnola, la Coppa del Re, ho vinto la Supercoppa Europea, la Supercoppa della fissa domanda, chi è il citofono? Vediamo che sì, chi è? Ci serve su nudo, vita gas, devo fare il conteggio del gas. Prego, ciao, coglione. Sì, cazzo, campanello di merda che mi trovo. Bene, dimmi, tu Italgas, perché tu avere tutto del Milan se sei del Italgas? No, sono figlio di migranti, mezzo milanese, mezzo catalano, mezzo di San Vito, mezzo di merda. Ah, ci sa, Bucci! Sono italiano, qui sostengo, è glorioso. Che ne pensi del Milan? Di che? Di chi? Milan, è perché ancora esiste come squadra? Certo che esiste, certo che esiste, ma potresti anche allenarlo tu, dai, ieri come mi stai allenando a zero, a... Ma senti, ma cosa c'entra con lettura di cash? Fai lettura di cash, no? Signor Galdia, e adesso tu, e cazzo vuoi abitami? Vediamo come 27 meglio, va. a due venire. Non ti preoccupare, firma su un piazza di carte. No. E che te? No, parente mio un autografo. Ah, ma vuoi pigliare proprio quello, comba? Sì, cioè no, ya, mi ha fatto fare nuoto, il presidente ci ha fatto spendere un sacco di soldi. Senta che io ti dico una cosa, io ci venerò pure a Romina, però è periodo di castagni e accoglie castagni a sindro fare. Poi il periodo di clamendine, poi il periodo di pimmalure, poi il periodo di molona pane, poi il periodo di olive. Chiembo, per venire la nomina, un etegno! Te posso solamente consigliare un grande allenatore che ti può far per la squadra, però in Europa League ti può far chiamare. Chi è? Sta minchia! DJ Huggy, yeah, let's go. I'm in the middle now, making everybody say wow. Yeah, I'm not sitting up, I'ma show you how. Yeah, they're right for my business now. I'm in the middle now, making everybody say wow. Yeah, I'm not sitting up, I'ma show you how. Yeah, they're right for my business now. I put down my drinking, my third eye started blinking, and then it got me thinking. The booze, it got me sinking. The smoke, it had me twisted. Enough that I was listed as alien and gifted. Evolution, I assisted. Couldn't get enough and became a fiend. Now I'm off in a new galaxy, and I got big plans and I got big dreams. Get up in my spaceship and I'll show you what I mean. And I stop big scams and I still get cream. This apocalypse, I got a female team, and my girls are tough and I never mean. Uniting everybody is my eternal dream. Making everybody say wow. Never say enough, I'ma show you how. Yeah, they're right for my business now. I'm living in the now. Making everybody say wow. Never say enough, I'ma show you how. Yeah, they're right for my business now. Letting go of that sad girl, I do not want her. Integrating all myself and I'm getting warmer. To the masses, I will be a celestial informer. Love me, I am your chameleon transformer. I'll show you what I mean. And I stop big scams and I still get cream. This apocalypse, I got a female team, and my girls are tough and I never mean. Uniting everybody is my eternal dream. And my crew be unruly and my mind is clear. No, you can't fool me, cause my spaceship's here. I'll be gone in the flash, say I love you dear. You're my man, Huggy, banging in your ear. Take it in and out, get up in my maze. I can feel your rock at the end of the day. And I hope this ain't just a silly phrase. Call me by my name, say it, Kelly Mays. Something that's bigger is talking to you. Something that's bigger through me, it gets glue to stick to your trigger. My aura is blue, throat chakra is pulsing. I know what to do. Something that's bigger is talking to you. Something that's bigger through me, it gets glue to stick to your trigger. My aura is blue, throat chakra is pulsing. I know what to do. Sto tornando in mano. Buonasera. Sì, pronto, buonasera, gioielleria? Sì. Sì, salve, senta, mi chiamo Angelo. Sì. Sì, allora, io faccio la scuola media via Roma. Sì. Allora, mi sono fatto appena la tipa, che sto bello pimpante, mi sono appena fidanzato, e quindi adesso vorrei fare, comunque, ho dei buoni progetti e mettermi da parte qualche bel braccialetto da regalargliele. Allora, siccome a lei piacciono, capito, le piaccio perché sono tipo bello tosto, tipo tamarro e criminale, capito, poi che chiamo la gente pesante e spacco tutto, cioè che potrei fare, volevo fare una cosa un po' particolare, cioè una richiesta per voi, capito, ciò. Pronto? Sì, mi dica. Ah, ok, bene. Cioè, allora, volevo fare che tipo, cioè siccome... mi piaccio bello pesante, credo che passo lì col booster, con lei dietro, faccio tipo finta di rapinare la gioielleria, e mi prendo una cosa tipo un anello e me ne vado. Cioè, però posso pagare prima, magari in privato, che vengo da solo io, e poi dopo, verso il pomeriggio, ripasso e faccio tipo questa scena. Assolutamente no. Adesso non so che cosa hai in mente, ma assolutamente no. No, cioè, ma no, cioè che tipo, io pago prima, cioè non è che do... Sì, ma no, assolutamente no, qui abbiamo le videocamere di sorveglianza, sono collegate con la questura, no, stiamo, non facciamo questo genere di cose. Ah, ok, che poi sarebbe pure di bello per sponsorizzarlo, capito? Assolutamente no. Ah, capito, ah, mi dispiace perché la tipa poco ci teneva, ma non so chi chiamare, cioè che lei mi può dire qualche gioia di... Assolutamente no, queste cose non le facciamo, non ne sono impensabili, assolutamente no. Peccato, zio, cioè, peccato proprio perché, cioè, ma sei sicuro che, cioè, non è che... No, faccio finta che la telefonata non sia nemmeno avvenuta, guardi, sono cose che per telefono nemmeno le dobbiamo dire. Ah, ho capito, vabbè, dai, ok, quindi comunque sei un cagasotto da pazzi, cioè, tranquillo come cosa, mica devo fare le cose serie, ma per fare impressione alla tipa, se no non mi si caga, cioè, è brutto. Va bene, grazie allora. Ciao zio, ciao, vuole. Un bacio, ciao. Sì, pronto, buonasera amica, mo Angelo, sì. Faccio la terza media. Sì. Allora, siccome da un po' che ormai sto con la mia tipa, sì. Che le piaccio perché, so, capito, sono tipo, faccio tipo lo spiritoso, tipo quello che si impone, il duro, capito? Sì. Allora volevo farle, siccome stiamo per fare tipo un anno quasi, volevo prenderle un pensierino. Che è un bell'anello, però in maniera particolare, proprio da me stesso, che nel senso, avevo intenzione di passare col booster davanti alla vostra gioielleria, con lei dietro, di fare finta di fare una rapina e di scappare. Cioè, però il gioiello, quello che è l'anello, adesso vediamo bene che cosa prendere, lo prendevo tipo la mattina, che non vado a scuola. È meglio che si rivolge un'altra gioielleria, perché io questa cosa non la posso proprio fare. Ma lì ci viene mia madre, quindi pensavo che sapeva, conosceva un po'. No, non la conosco sua mamma. Oppure ci venga con sua mamma, ne parliamo a voce, va bene? Ho capito, vabbè, ma quindi mi assicura che potrebbe anche farsi sta cosa. Assolutamente, non si fa proprio. E allora mia mamma che la faccio niente a fare? Non lo so, per capire che cos'è questa telefonata, perché sinceramente mi sembra molto strana. No! Vabbè, ma io volevo fare una cosa particolare, cioè, può capire che è una richiesta, tipo, capito, che tipo... Ma è folle questa richiesta, non è particolare. Mia zia, io non è che da folle, io sono innamorato, faccio queste cose che devo rispettare il ruolo che ho, non è che devo... non è che so folle. Vabbè, non è che devo venire a spalare, cioè, capito? Proprio faccio, fermati tu, che cazzo fai? E tu che scappi, o che prendo il ballo, non è che devo fare male a qualcuno, capito? Non è, cioè, proprio in come? Non è il caso, lasci perdere. Guarda che c'ho, cioè, sono gentili, mica c'ho le maniere forti. Non è in dubbio, però non si può proprio fare questa cosa, almeno qui no, provi in un'altra gioielleria, può darsi che le va meglio, ma qui no. Ma se tipo mi maschero in maniera spiritosa? No, lasci perdere, arrivederci. Beh, io volevo, cioè, comunque volevo escogitare qualcosa di fregno, cioè, che posso fare? Lo faccio a tempo di musica, che tipo ballo e combro e me ne vado. No, ma lasci perdere questa gioielleria, veramente, provi in qualche altra, sicuramente le andrà meglio. Arrivederci. Comunque, quante, che cattiveria, oh. Pronto? Chi è? Pronto, 4x4! Pronto? Mi sto schiantando con 4x4 di nuovo! Pronto? Ma le patate la strotta non le portate! Le patate alla fine non le portate! Per mangiare il rustel! grazie! 4x4 quant'è che faceva? Non me la ricordo. 8. Un po' di incidente abbiamo fatto, ci siamo schiantati contro un platano. Solo che stavolta non c'è il fuoco, avevo portato pure le calda arrost, ma non si mangia un cazzo. Ma tu sei un mito. Non c'è più un cazzo da fare. Ma tu zio, che cazzo, ma non fai il ponte, cioè. Cazzo, pensavo che già stavi a scorrazzare col 4x4 a impennare, invece stai chiuso là dentro. Esci fuori, dai, andiamo a fare il bagno, no? Great Val.